falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Devo dire che forse anche per la professione che svolgo sono molto d'accordo con quello che sostiene il protagonista della nostra puntata di oggi, che quando ha creato quello per cui è diventato famosissimo, cioè quello di cui stiamo per parlare, ha dato molta importanza all'aspetto musicale della sua creazione, perché ha realizzato una sigla che identifica immediatamente di cosa si sta parlando, e quindi voglio partire proprio da questa sigla per introdurvi il protagonista di oggi. Eh sì, è impossibile confondersi, è impossibile non riconoscerla. Stiamo parlando dei Simpson, la squinternata famiglia di Springfield. Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie, che insieme ai moltissimi personaggi che gravitano attorno a loro danno vita alla sitcom animata più famosa della storia, la più longeva, quella che detiene il maggior numero di primati, addirittura il Guinness World Record per il numero di celebrità partecipanti a una serie animata. E tra l'altro questo è un argomento che mi riguarda molto da vicino, una cosa della quale mi vanterò quando sarò con il plaid a raccontare le cose ai nipotini, ma di questo vi parlerò più avanti. Adesso raccontiamo la storia del creatore dei Simpson, che non ha inventato solo i Simpson, ma anche altre serie molto fortunate, e il suo nome è Matt Groening. Ascoltiamo questa sua dichiarazione che ci racconta subito molte cose su di lui. Il motivo per cui ho fatto quello che ho fatto non sta nella grande ambizione, è che non avevo scelta. Io dovevo fare quello che sto facendo. Il fatto che io abbia avuto successo è una fortuna, va benissimo, ma lo avrei fatto lo stesso, anche senza successo. Perché io amo fare i cartoni animati, mi piace scrivere e sono fortunato perché mi pagano per farlo. Beh, indubbiamente la più grande fortuna nella vita è quella di essere pagati per fare una cosa che ti piace, per assecondare la tua passione. Se poi, come nel caso di Matt Groening, è una passione che si ha fin da piccoli, ancora meglio. È lui stesso che racconta l'origine di questo suo amore incondizionato per i fumetti, per i cartoni animati, che nasce da un motivo ben preciso: la professione di suo padre. Mio padre era un disegnatore di cartoni e la nostra casa era piena di fumetti. La mia vita è stata caratterizzata da uno stretto rapporto con i cartoni animati, ancora prima di saper leggere. E quindi Matt Groening appartiene alla lunghissima schiera di persone che vengono influenzati nella loro vita dalla professione del padre, ma è tutta la famiglia che in qualche modo è una fonte di ispirazione. Intanto lui nasce a Portland, nell'Oregon, il 15 febbraio del 1954. Il padre è di origine tedesca e la madre di origine norvegese. E sapete come si chiamano? Homer e Margie. E indovinate un po' i nomi delle due sorelline minori: Lisa e Maggie. Ho chiamato i Simpson con i nomi della mia famiglia. Mio padre si chiama Homer, mia madre Margaret, quindi Marge, le mie sorelle Lisa e Maggie. Ma non ho chiamato così i personaggi perché rassomigliano ai miei, eh? Sfortunatamente per loro, i Simpson continuano ad avere successo e così la mia famiglia deve convivere con questa fama non cercata. Mio padre si è lamentato solo una volta. Non se l'è mai presa per niente, tranne per quell'episodio nel quale i Simpson sono nel deserto e bucano una gomma. Homer spedisce Marge in città a far riparare la gomma bucata, mentre lui se ne sta tranquillo all'ombra ad aspettarla. Mio padre mi disse che Homer non lo avrebbe dovuto fare. Ma come, papà? Gli dico, Homer, ci sono delle volte che strangola i figli, allora non ti lamenti di quello? Chissà perché non gli ha mai dato fastidio. Homer Groening è sicuramente una figura fondamentale nella vita di Matt, anche perché a seconda senza riserve la passione del figlio per il disegno, per l'arte in generale, anche perché è la sua passione. Quindi Matt ha la fortuna di poter frequentare l'Evergreen State College di Washington, che è una libera università d'arte dove si ha modo di coltivare e di migliorare delle doti particolari, e nel suo caso quelle di fumettista e di scrittore. Le sue prime vere grandi passioni da ragazzo sono Crudelia Demon, la cattiva del film La carica dei 101, e i mitici personaggi dei Peanuts di Charles Schulz, dal tenero Charlie Brown al simpaticissimo e filosofico cane Snoopy. La grandezza di Charles Schulz ci ha dimostrato che si possono usare pochi tratti e idee semplici, ma dire cose importanti. E io, come creatore di cartoni animati, sono stato molto influenzato da questo. I Peanuts sono un fumetto meraviglioso, soprattutto all'inizio, nei suoi primi anni, quando l'argomento trattato è quello dell'infanzia e della sua triste realtà, della solitudine, delle pene d'amore. Le storie di Schulz girano sempre intorno all'amore non corrisposto e sono vere. Ciascuno di noi ama sempre qualcuno che non lo ama. Io penso che questo fumetto così semplice sia uno dei più grandi lavori del XX secolo. Anche attraverso i suoi gusti capiamo subito una cosa di Matt Groening, una cosa che ce lo fa piacere, perché è un anticonformista. Io, per esempio, che non amo gli americani, adoro gli americani che in qualche modo non ci stanno, non stanno dalla parte del sistema. E lui è uno che, quando tutti fanno il tifo per i buoni, ammira i cattivi, perché è uno insofferente alle regole. Adora essere giovane negli anni della contestazione, questo lo porta a diventare un esponente di punta di quella controcultura che vedrà proprio nella sua creazione i Simpson una delle sue massime espressioni. Abbiamo visto come il nostro protagonista di oggi, che è Matt Groening, il creatore dei famosissimi Simpson, sia stato influenzato enormemente dal padre Homer, ovviamente, anch'egli fumettista e grande amante dei cartoni animati. Da ragazzino lui ha una passione quasi incontrollabile, non solo per i cartoni animati, ma anche per le sitcom televisive che guarda ogni volta che può. Da piccolo guardavo sempre le sitcom e i miei insegnanti a scuola mi dicevano: non andrai da nessuna parte con quella roba, stai sprecando la tua vita. E io rispondevo: vi farò cambiare idea, non è tempo sprecato, è ricerca. È ricerca, è una gran bella risposta. Poi, tra l'altro, credo che una delle soddisfazioni più grandi della vita sia quella di far fare brutta figura agli insegnanti che non hanno creduto in noi. Comunque, lui ha una grande determinazione a fare tutto quello che ha in mente in maniera quasi scientifica, perché analizza a fondo quello che fanno gli altri e cerca di trovare pregi e difetti. Tutto questo allo scopo di realizzare l'idea perfetta. Avevo la peggiore delle vite, perché stavo incollato davanti alla televisione per ore, completamente drogato. E quella televisione la giudicavo orribile anche da bambino. Avevo le mie aspettative che venivano puntualmente disilluse. Ad ogni nuova stagione aspettavo le novità tutto eccitato. E poi ero devastato dai programmi. ad esempio un anno, mi sembra il 1960. Aspettavo ansioso la prima di un nuovo show, Dennis la minaccia. La sigla mostrava la sequenza animata di un tornado che diventava un tornado umano, che era Dennis. Quindi c'era un bambino che doveva essere un tremendo monello. Ero elettrizzato all'idea di un bambino cattivo in TV. Ma lui si rivelò essere un bamboccio sdolcinato e io ci rimasi malissimo. So disappointed. Nel 1977 Matt, che ha 23 anni, si trasferisce a vivere a Los Angeles. Ha un bagaglio enorme di informazioni, quelle che gli ha passato il padre fin dall'infanzia facendolo appassionare ai cartoni animati, ma anche quelle accumulate in anni di visione forzata delle sitcom che gli hanno fatto comprendere cosa di sicuro lui non vuole fare. E poi ha le informazioni ricavate dagli anni di studio all'Evergreen State College, che è l'università in cui si è laureato. Si sente pronto a entrare nel mondo dorato delle produzioni televisive e la scelta di recarsi a Los Angeles, naturalmente, non avviene a caso. Sentite cosa dice lui stesso. Quando finalmente terminai gli studi nel 1977, andai subito a Los Angeles, perché sapevo che era lì che si produceva tutta la spazzatura della cultura pop che veniva consumata nel nostro paese, e pensavo che lì tutti sarebbero stati coscienti di questo fatto. Arrivai a Los Angeles e la cosa folle è che scoprì che qui ci credono più che in qualsiasi altro posto del mondo. Parli alla gente di questi film, di queste sitcom, e a loro piacciono davvero. Gli piacciono quei filmetti, quegli show televisivi, ne sono fieri, non sto scherzando. I'm not kidding. Pensa, cioè gente a cui piacciono filmetti e show televisivi, lui ne parla stupito, e noi in Italia siamo abituati a molto peggio. Comunque, lui è da solo a Los Angeles, non conosce nessuno. Anche se ha le idee chiare, deve darsi da fare per sopravvivere e quindi inizia la trafila classica lavapiatti commesso in un negozio di dischi, però. Autista di un regista di film western in pensione. Insomma, si dà da fare, ma nel tempo libero si dedica alla sua passione. Inventa una striscia comica, Life in Hell, Vita all'Inferno, i cui protagonisti sono alcuni conigli antropomorfi e una coppia di amanti gay. Quindi già era, come dire, avanti. All'inizio fotocopia il fumetto e lo distribuisce gratis. Poi lentamente Life in Hell diventa popolarissimo tra gli amanti della cultura underground, tanto che nel 1980 inizia a essere pubblicato dal Los Angeles Reader, che è un giornale alternativo nato da poco. Il successo è strepitoso. Life in Hell arriva ad essere pubblicato da oltre 250 settimanali in tutti gli Stati Uniti. Diventa un libro che viene venduto e vende 22.000 copie. Viene seguito da altre serie di grandissimo successo. Love is Hell, School is Hell, Work is Hell, dove Matt Groening esplora una vasta gamma di argomenti che riguardano l'amore, il sesso e il lavoro. Life in Hell è il primo grande successo di Matt Groening, continua tuttora a essere pubblicato in diverse riviste settimanali, oltre a essere oggetto di culto degli amanti delle strisce comiche del passato. Ma soprattutto Life in Hell ha il grande merito di fare da apripista per i lavori successivi di Matt Groening. La striscia comica cattura infatti l'attenzione di James Brooks, che è il fondatore della casa di produzione Gracie Films, e James Brooks propone a Matt di realizzare un cartone animato da mandare in onda durante il programma televisivo di varietà della Fox, il talk show The Tracy Ullman Show, da lui prodotto. In un primo tempo l'idea è quella di realizzare una versione a cartone animato del fumetto Life in Hell, ma poi Matt ha quel colpo d'ala, quello che lo rende il protagonista perfetto del nostro programma. Invece di muoversi su un terreno conosciuto e già congeniale a lui ed è sicuro della sua striscia di grande successo, lui decide di rischiare e parte con un progetto nuovo, un'idea che gli è venuta in mente proprio ripensando ai programmi che guardava da bambino. Le sitcom che vedevo da piccolo piccolo avevano una visione della famiglia americana zombificata e non assomigliavano a nessuno che io conoscessi. Nella vita reale le persone ridono, piangono, mangiano, dicono le parolacce. Io ho cercato di colmare la distanza esistente tra la vita reale e quello che di divertente si vede nelle sitcom in TV. E questo è in parte il successo dei Simpson. Eh sì, è sicuramente questo il successo dei Simpson. Ironia e molto cinismo. Matt Groening decide di rischiare, quindi, e dà vita a una famiglia particolare, assolutamente fuori dagli schemi, dissacratoria, con questo padre obeso, indolente, cialtrone, Homer, la madre dai capelli blu, Marge, il monello Bart e l'intelligentissima Lisa, la piccola Maggie sempre col ciuccio in bocca, ma soprattutto una famiglia tutta gialla. E c'è un motivo per ciascuna di queste stranezze, e io questo motivo ve lo racconto tra poco. Stiamo raccontando oggi il colpo d'ala straordinario di Matt Groening, che è il padre della sitcom animata più famosa, longeva della storia, i Simpson. Abbiamo visto i suoi esordi, quindi un fumetto di grande successo, Life in Hell, grazie al quale gli viene data la possibilità di realizzare una sitcom animata per la televisione. E qui c'è il grande colpo d'ala, dicevamo prima, cioè lui non si siede sugli allori e parte con un nuovo progetto, prende spunto dai personaggi della sua stessa famiglia e crea la saga dei Simpson, che fa il suo debutto nel Tracy Ullman Show, un noto talk show americano. È il 19 aprile 1987, in forma di corti di un minuto l'uno. La serie ha talmente successo che viene trasformata in una vera e propria sitcom animata della durata di 30 minuti a episodio. Il suo debutto avviene il 17 dicembre dell'89. In Italia arriveranno solo 2 anni dopo. Da allora i Simpson hanno conquistato il mondo, diventando la sitcom animata più famosa in assoluto, la più longeva. Sta andando in onda adesso la 26esima stagione, sono già state annunciate la 27esima e la 28esima in fase di realizzazione. Tenete conto che ogni stagione ha una media di 22 episodi, ogni episodio impegna un gruppo di lavoro dai 6 ai 9 mesi, quindi immaginate la quantità di persone che sono dietro a questo cartone animato. E i Simpson sono entrati a far parte delle nostre vite. Chi è che non conosce la famosa risata di Homer? O questa sua tipica espressione? Mitico! Anch'io la sapevo quella! Per non parlare di quello che ripete sempre il terribile monello Bart, che è stato definito dalla rivista Time la 46esima persona più influente del XX secolo. Ciocciate il calcino! Vai! Ciocciate il calcino! E come non ricordare la straordinaria Lisa, che con la sua intelligenza sovrasta sempre il fratello. Fico, una macchina della verità. Lisa è stramba. Lisa è stramba. Papà, fallo smettere. Beh, da quanto risulta qui c'è il vero. Sì. Senti, c'è solo un modo per risolvere questa cosa. Sasso, carta, forbici. Povero prevedibile Bart, sceglie sempre il sasso. Mio caro vecchio sasso, niente ti batti. Sasso, carta. Oh. La famiglia Simpson è sicuramente un nucleo di persone fuori dagli schemi. C'è anche Marge, che pur essendo una madre amorevole e una moglie innamorata, ha un modo tutto suo di rapportarsi col marito e coi figli, a parte avere i capelli blu. Hai visto il telegiornale? Tesoro, coraggio, abbiamo problemi più gravi. Ma sono tanto arrabbiata. Sei una donna, puoi serbare rancore per sempre. Nella realizzazione dei suoi personaggi, Matt Groening pone un'attenzione particolare ai dettagli. Nulla è lasciato al caso, come racconta lui stesso. I have this theory about what's memorable in cartoon characters. Che cosa rende memorabili i cartoni animati? La loro silhouette, se li riesci ad identificare dalla silhouette. Topolino, Batman. Quando fu il momento di creare i Simpson, cercai di disegnare ciascun personaggio in maniera da renderlo riconoscibile per la sua silhouette. Oh, è Bart Simpson! Perché la pelle gialla? Perché ti sembra che ci sia qualcosa di sbagliato nel tuo televisore. E questo è appropriato anche a livello simbolico per i Simpson. E poi anche perché se fai zapping veloce e capiti sui Simpson, non c'è nient'altro di simile. Noi emergiamo. We stand out. E beh, il successo è fatto anche da questo. Pensare una cosa che gli altri non hanno ancora pensato. E lo straordinario successo dei Simpson porta Matt Groening a creare nel 99 una nuova serie animata completamente diversa dalla strampalata famiglia di Springfield. La serie si chiama Futurama. Futurama o Futurama è ambientata nella New York dell'anno 3000. Il protagonista è Philip Fry, fattorino di una pizzeria che il primo gennaio del 2000 finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico. Si risveglia 1000 anni dopo, iniziando una nuova vita nel futuro e incontrando personaggi improbabili come la ciclope Turanga Leela, della quale si innamora, e il robot Bender, che diventa il suo miglior amico. Senti, Bender, dove è il gabinetto? Il Gabi? Netto. Netto cosa? Gabi. Netto Gabi. Ah, lascia perdere. Anche Futurama, seppur non come i Simpson, è una serie di grande successo che ha raggiunto l'ottava stagione. Deve la sua popolarità a una sceneggiatura molto ben studiata. Qui Matt Groening, piuttosto che i rapporti interfamiliari come nei Simpson, analizza il rapporto con la tecnologia in una visione assurda, esasperata, che porta gli uomini a convivere con i robot e con le creature aliene. Ma ascoltate questa anticipazione che ha fatto recentemente Groening. Ho avuto così tanto successo con i Simpson e Futurama che se dovessi fare un altro cartone mi domando quando avrei tempo per dormire. Ma forse farò Life in Hell in forma animata. Mi piacerebbe, ma in quel caso me lo scriverei tutto da solo. I Simpson sono la mia idea di famiglia. Celebrano gente che si ama, ma che si porta reciprocamente alla follia. Futurama è la mia idea del futuro e della fiction scientifica. Ma ho un progetto segreto. Voglio demolire il rock and roll. Voglio fare al rock quello che ha fatto alla famiglia americana. È una grande idea. E anche se in questo momento ve ne ho parlato, nessuno sa di cosa si tratti. Ma potrebbe essere fantastico. Mania, stimolante di ingenua follia, per nascondere o confondere la mia malinconia, costretto già a sentire certe assurdità, senza arrendermi, a difendermi da chi non capirà. Come stanno trattando male il rock and roll, come stanno trattando male il rock and roll. Quando vi ho detto prima che c'è la presenza di personaggi, diciamo, noti del mondo dello spettacolo all'interno delle storie dei Simpson, lo dicevo anche pro domo mia, perché la cosa mi riguarda da vicino, perché recentemente ho partecipato a una puntata dei Simpson doppiando, insomma, un personaggio particolare di cui magari poi vi dirò, e a farmi diciamo da guida all'interno di un mondo che non conoscevo, e c'era uno dei più grandi doppiatori italiani, che è Massimo Lopez. Ciao Enrico. Ciao. Ti piace fare il doppiatore dei tanti mestieri che ami? Guarda, fare? È una passione che io ho veramente da sempre, perché quando ho cominciato a fare l'attore pensavo, dicevo, mi piacerebbe fare l'attore e fare anche la radio, fare il doppiaggio, usare la voce, giocare con la voce, perché con la voce ho sempre, e anche poi cantare. E anche cantare. Quindi diciamo, il doppiaggio è stato una passione, perché è un giochino che facevo da bambino abbassando il volume del televisore giocavo a fare queste cose, quindi era una specie di piccolo sport. E tanti successi di attori stranieri o di film sono stati agevolati da grandi doppiatori italiani, devo dire. Sì, diciamo che un bel riconoscimento, sì, l'Italia ce l'ha da questo punto di vista, perché no? Sono, sì, ci sono anche tanti aneddoti di attori proprio che si sono complimentati con i doppiatori, e anche di qualche delusione, perché a me capita, certo, di mettere in lingua originale e scoprire che è più affascinante la voce dell'italiano che non quella dell'americano. Per sì, è sempre è importante, secondo me, tutte e due le cose, no? Poter vedere il film in originale e poterlo vedere poi anche doppiato, perché la nostra tradizione poi è quella alla fine, per cui è così, però è giusto anche che qualcuno possa vederlo in originale. Però è vero che c'è, a volte un doppiatore italiano riesce a dargli un'anima in più, oppure è vero anche che, sebbene ci sia sempre grande rispetto poi alla fine dell'originale, nel doppiare si deve cercare, almeno questa è una cosa che mi hanno un po' insegnato a fare, cercare di non prevaricare l'attore con la tua, certo, no, con la tua interpretazione, ma assolutamente cercare di essere, sì, assolutamente. Senti, siccome tu non ti fai mancare niente a livello di difficoltà nella vita, peraltro mi hanno detto che stai per sbarcare a tale quale show. Esatto, infatti c'è questa nuova avventura, per cui divertente, perché io poi sono sempre stato spettatore. Beh, certo, di questo programma. Poi sei uno che imita, sei uno che canta, ed è particolare, ironia. Esatto, giocare poi con le imitazioni che ti dicono loro di fare, questa è una cosa che ancora non avevo sperimentato. Certo, quindi dicevo, siccome tu ami cimentarti con montagne impervie, questa volta sei sbarcato nella grande famiglia Simpson con una eredità pesante, no? Perché hai sostituito, sì, dopo 23 stagioni Tonino Accolla, che sì, purtroppo è deceduto. Quindi lì, come dire, il tuffo carpiato era ancora più complesso, perché uno non deve discostarsi, non deve essere troppo vicino, immagino. Spiegaci come si affronta un problema del genere. Guarda, in effetti hai detto bene, è un problema nel senso che finché ti chiamano per fare un doppiaggio di un film, tu inizi a doppiare quell'attore, è un conto. Quando devi effettivamente sostituirlo diventa più pesante, perché sai che la gente potrebbe rimanere delusa. Qualsiasi voce tu vada, certo, a mettere, qualsiasi doppiatore entri, a un certo punto c'è una sorta di delusione perché c'è l'abitudine. E faccio una piccolissima premessa, che con Tonino Accolla eravamo amici, ci siamo conosciuti, pensa, con l'inizio della carriera, il primo provino in assoluto per andare in teatro, che fu all'occasione del Teatro Stabile di Genova, a vincere questo provino, diciamo, teatrale, furono Tonino Accolla ed io, e lui mi disse: vedi Massimo, allora stiamo cominciando bene, siamo stati presi qui dal teatro, e vedrai che i nostri due nomi si sentiranno anche in futuro. Oh, è successo. Hai in visto. Qualche modo, vedi? Comunque, io ho sostituito Tonino Accolla, perché lì dall'America praticamente ha proposto di fare dei provini, quindi io mi sono sottoposto a un provino e mi è stato chiesto proprio specificatamente: non bisogna fare un'imitazione di Tonino Accolla, certo, ma una cosa però nemmeno che si discosti troppo, certo, quindi una tua personalità, un salto carpiato triplo, eccetera, eccetera, certo. Per cui io ho fatto una prova così, e insomma alla fine poi mi hanno chiamato, ben consapevole del fatto che comunque, pur facendo bene una cosa, perché non si tratta di fare bene o male, ma comunque cambi una vocalità. Beh, certo, e quindi la gente magari ci vorrà un attimo di tempo. Ci vuole un po' di tempo, certo, ma questo succede sempre con tutti gli attori che vengono un po' sostituiti, no, in tal senso. Del resto non puoi effettivamente fare un'imitazione, devi metterci un po' di tuo, ma anche rispettare, diciamo, se vogliamo. Io mi sono un po' attenuto anche all'originale proprio fatto dall'attore americano, insomma. Perfetto, senti, l'ultima domanda: che cosa c'è di te in Homer Simpson? Cioè, che cosa c'è? Cosa ci hai messo? Qual è stata la tua chiave di lettura? Ma guarda, di me come caratterialmente, a parte che continuando a raddoppiare finirà che poi ci somiglieremo, perché spero non fisicamente, perché tu sei bello, no, asciutto, diciamo. Sono asciutto, anche se la tendenza è quella di omerizzarmi in qualche modo, però vabbè, diciamo che c'è un quel politicamente scorretto suo e quel è anche un tocco di ingenuità che alla fine ha quella cosa, sento mi appartenga ancora abbastanza, che è quell'ingenuità che forse taluni possono ricordare esserci pure nel personaggio di Disney di Paperino, sì, no? Paperino era anche un po' così, che uno dice un po' sfigatello, però piaceva per quello, no? Un pochino. Per le sue goffaggini. Per la sua goffaggine, questa goffaggine penso di averla abbastanza, in questo penso che ci somigliamo un po'. Grazie Massimo e grazie ancora per avermi fatto da maestro e in bocca al lupo per tale quale show. Crepi il lupo, grazie a te, grazie della chiamata, è stato un piacere davvero. Ciao ciao ciao ciao, ciao, ciao. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, e in questo caso i colpi d'ala sono innanzitutto organizzativi, sono mentali. Matt Groening riesce a vedere le cose da un altro punto di vista, che è il primo presupposto dell'arte, e poi in qualche modo demolisce, identifica e destruttura la famiglia tradizionale americana, e quindi insomma gliene siamo grati perché ha fatto la storia con un cartone assolutamente godibilissimo, di grande spirito, e io sono, ripeto, estremamente orgoglioso di avere fatto parte, anche se solo per una puntata, di questa fantastica squadra, quella dei Simpson. Una storia di un colpo d'ala incredibile che l'ho portato a volare in alto, come il falco e come il gabbiano. Se volete mandarci dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, fatelo, non so, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it oppure sul sito radio24.it. C'è una fantastica pagina Facebook, anch'io ne ho qualcuna, insomma, se volete mi trovate quando e come volete. Ciao. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.